N'est-ce qu'un faux bruit? L'un de ces sales ragots, comme ils sont colportes, entre évier et latrine, à l'heure de la mise au baquet des repas, une fois de plus ingurgité. J'ai appris hier une des pratiques officielles les plus sensationnelles des écoles publiques américaines et qui font sans doute que ce pays se croit à la tête du progrès. Il paraît que parmi les examens ou épreuves que l'on fait subir à un enfant qui en est pour la première fois dans une école publique, aurait lieu l'épreuve dite de la liqueur séminaire ou du sperme, et qui consisterait à demander à cet enfant nouvel entrant un peu de l'insérer dans un bocal et de le tenir ainsi prêt à toutes les tentatives de fécondation artificielle qui pourraient ensuite être tentées. Car, de plus en plus, les Américains trouvent qu'ils manquent de bras et d'enfants. C'est-à-dire non pas d'ouvriers, mais de soldats. Et ils veulent à toute force, par tous les moyens possibles, faire et fabriquer des soldats. En vue de toutes les guerres planétaires, ils pourraient ensuite avoir lieu. Serait destiné à démontrer par les vertus écrasantes de la force, la surexcellence des produits américains et des fruits de la sueur américaine sur tous les champs de l'activité et du dynamisme possible. Produit. Il faut, par tous les moyens de l'activité possible, remplacer la nature par où elle peut être remplacée. Il faut trouver à l'inertie humaine un champ majeur. Il faut que l'ouvrier ait de quoi s'employer. Il faut que les champs nouvelle soit créée et que ce soit le règne enfin de tous les faux produits fabriqués, de tous les ignobles ersatz synthétiques où la belle nature vraie n'a que faire, et doit céder une fois pour toutes et honteusement la place à ces triomphaux produits de remplacement, de sperme, de toutes les usines de fécondation artificielle aura enfin de quoi s'employer. Plus de fruits, plus d'arbres, plus de plantes pharmaceutiques ou non, et par conséquent, plus d'aliments. Mais les produits de synthèse s'attirent dans des pas. de l'atmosphère. Sur des axes particuliers, des atmosphères tirées de vent par synthèse aux résistances des cacheuses de la guerre. Qui la guerre n'a jamais connu de la mort. Et vive la guerre, n'est-ce pas? Puisque ce sang, c'est la guerre. Les Américains ont préparé, qu'ils préparent pied à pied pour défendre cet usinage insensé contre toutes les concurrences qui ne sauraient manquer de toute part de s'élever. Il faut les soldats, des armées, des avions, des cuirassés. Avaient toujours devant eux la commensurable armée de tanks, d'avions, de cuirassés qui leur servaient de bouclier. J'ai vu beaucoup se battre, les Américains et leurs machines. J'ai vu beaucoup se battre des machines. À l'infini derrière les hommes qui les conduisaient. En face du peuple, j'ai mangé à ses chevaux, à ses bœufs et à ses ânes les dernières tonnes de morphine vraie qui peuvent encore lui rester. Pour la remplacer par des ersatz de fumée. J'aime mieux le peuple qui mange à même la terre d'où il est né, pas les tarahumaras. Mangeons le peyote à même le sol. Pontons qu'il naît et qui tue le soleil pour installer le royaume de la nuit noire et qui crève la croix des espaces afin que les espaces de l'espace ne puissent plus jamais se rencontrer. C'est ainsi que vous allez entendre la danse de Toubouri. Allah, comme au bas de la pente amère, cruellement désespéré du cœur, s'ouvre le cercle des cigognes. Très en bas, comme encastré dans la terre mère, désencastré de l'étreinte. La terre du charbon noir est le seul emplacement pur dans cette forêt de roches. Le rite est qu'un nouveau soleil passe par sept points avant d'éclater à l'horizon. Hommes, un pour chaque soleil, et un septième homme qui est le soleil, tout cru. Seconda parte di 451 frammenti sonori, dopo la prima dedicata ad Antonio Rezza e a Flavia Mastrella, ospiti straordinari coi neri, discorso bravo, di neri, bravo, esatto, bravo, grazie. Sai che io mi capisci, però ormai piano dopo tanti anni qualcosa riesco a intuire, qualcosa. Dovresti capirmi di più, ma forse non tanto mi impegno perché non ho voglia. Però io ti capisco invece. Ma credi. E ti seguo. Credi. No. Io te lo faccio pure credi. Comunque, al di là di questa. No, ma guarda, io sembra che non ti capisco. In realtà ti capisco. Bene o male. È che non voglio darlo vedere a te che ti capisco. Ah, va bene, ok. Vabbè, oltre a questa piccola pantomima tra il buon Max e io. Ma cioè, sembra. Finisce questo buon Max. Mi sembra il buon coglione. Ma qua. No, ma è una cosa affettuosa. Cioè, anche Lorenzo sul blog, buon la trasmissione Max. Di buon Max. Basta, finiamo questa roba. Allora, dal cattivo Max. Ecco, già mi piace. Anche non se mi sento roba, ancora preso però, per il culo, però va bene. Allora, no, ma a parte quelle nostre appunto pantomime che ci piace. Sì, qualche volta ci piace fare la pantomima. Ci scappano. Ci sfuggono. Siamo artigiani anche noi. Sì, forse non così anche geniali. Troppo. Anche troppo. 451 contro versus Antonio Rezza e Flavia Mastrella, seconda parte che è partita con Charlemagne Palestine, non casualmente, non perché ci stavamo fumando le sigarette, poi in parte è anche vero, abbiamo pure ammesso prima, siamo dei gran tabagisti. E Palestine perché? Perché abbiamo voluto omaggiare a Flavia Mastrella, chissà se ancora ci ascolta tramite streaming, perché insomma sono a Roma, anzi nel Lazio, diciamo un po' più ampia la faccenda, perché insomma Robert Morris e non Philip Morris è un po' un punto di riferimento per quanto riguarda il minimalismo ricercato dentro la scenografia, dentro gli spazi creati da Mastrella, con interazione appunto di Rezza, e abbiamo voluto così creare anche una sorta di ponte sia con il minimalismo forse più gestualista, quello di Palestine, questi pupazzi, questa gestualità sul pianoforte, l'organo che accompagna un po' il personaggio, quindi anche l'extra musicalità di Palestine, minimalismo, ma anche appunto la teatralizzazione di questo, il gesto dentro uno spazio minimale, non soltanto sonoro, ma anche appunto quasi scenografico, con questi grandi pupazzi che accompagnano e riempono in una certa qual misura lo spazio. E Artaud mixato dentro insomma il grande capolavoro Strumming Music di Palestine, per dare una sorta di riferimento che poi d'altronde veniva proprio espresso in maniera chiara. Sant'Antonio, insomma, Antonio Rezza tagliava con i riferimenti, giustamente, ci vuole far perdere dentro appunto il suo artigianato. La Mastrella invece ci dava dei punti di riferimento, sicuramente quello del minimalismo di Robert Morris, e quello di non il minimalismo ma il surrealismo, il teatro della crudeltà, questa scena riempita da Artaud con un nuovo modo di intendere la vocalità, la stessa scena che prende appunto altra forma, diventa quasi una sorta di iperbole teatrale, quindi proprio una rottura anche dello stesso palcoscenico. Questo è un punto fondamentale anche dentro, riteniamo, l'opera di Rezza e Mastrella. E appunto anche questo lavorare, come abbiamo sentito nella prima parte, nelle spezzoni video poi tratti da Fuori Orario di Rezza e la Mastrella, c'è questo lavorio molto interessante sulla vocalità. Dedichiamo un po' questa seconda parte, questa seconda sezione della seconda parte, appunto al lavorio sulla voce, sull'audio teatralizzato, modificato, manipolato, per dare appunto quell'extra musicalità anche che straordinariamente, in maniera assolutamente incredibile anche per tanti aspetti, da appunto la voce. E chiudendo appunto il cerchio che ha ben esaustivamente rappresentato e raccontato Max in questa introduzione, questa anche articolazione del percorso di stasera, ricordiamo ancora, lo voglio sempre fare perché è un punto di riferimento importante per noi di 451 Frammenti Sonori, la possibilità per ognuno degli ascoltatori, di chi è interessato a riascoltare o comunque andare a verificare le trasmissioni passate, di passare, scusate il gioco di parole, attraverso il nostro blog, che è sempre www.451frammentisonori.noblogs.org. Lì troverete tutte le informazioni anche per coloro che volessero ascoltare o riascoltare l'intervento, questa chiacchierata informale, questa interazione comunque fra 451 e Antonio Rezza e Flavia Mastrella, possono e potranno riascoltarlo tra una settimana circa, quando saranno sul blog, e la possibilità, oltre di ascoltarli in streaming, anche di poterli scaricare. Questa è una novità da un mese che abbiamo inserito all'interno del blog. Sì, solo con un motore di ricerca non si riesce, ma non stiamo a dire, andate su un altro motore di ricerca nel caso non riuscite a scaricare, con Google Chrome, poi tanto ecco. Ormai siamo tutti Google, infatti siamo tutti condizionati, è inutile prendersi per il culo e non fa pubblicità, è predominio totale di questi motori di ricerca, e non solo di questo perché ormai è totalizzante, ma ci sarebbe da fare un discorso molto più complesso anche sui sistemi operativi sul computer. Vabbè, certo, andiamo certo. Oltre e ritornando, diciamo, a bomba in tutti i sensi sul percorso che abbiamo strutturato in questa seconda parte della seconda parte, adesso ci concentriamo appunto, come diceva Max, sulle sperimentazioni sulla voce, sui testi, appunto sulla parte vocale, non solo, e apriamo con il progetto che ha attraversato 451 un po' di tempo fa. C'è questo straordinario progetto collettivo nato negli anni 70 ma che si è sviluppato ancora fino agli anni 80, un progetto aperto dove dove autori, musicisti si attraversavano questo contenitore, Los Angeles Free Music Society, e questo bellissimo cofanetto che è stato realizzato circa 4 anni fa, che ha ricollocato questi progetti che hanno attraversato la scena di Los Angeles, con progetti come le 4-4, Chip Chapman, il grande Tom Recchio, che più di una volta è passato attraverso 451, i Du Duets, Smegma, insomma tanti altri. Se avete la possibilità, è uno splendido cofanetto 10 CD dove c'è veramente la storia di questa eclettica performance itinerante e giocosa, oltre che informale e disarmante, di queste musiche informali e deliranti che hanno attraversato queste progettualità, questi collettivi musicali. E abbiamo selezionato tra questi vari autori, proprio dall'ultimo CD, il 10° CD, i Du Duets, formazione oltretutto che si muove anche su dei terreni per certi versi anche new wave, punkeggianti, che però in questo brano devo dire sorprendentemente elaborano una sorta di improvvisazione musicale appunto disarticolata per certi versi, con l'inserimento di queste voci gracchianti, quasi rese oggettive, quasi sembrano degli oggetti sonori, e sperimentazioni vocali che si agganciano molto bene sia al discorso sperimentale di Artaud, ma anche a tutto quell'universo di vocalità e di testi distorti e ribaltati che è il punto focale di questa seconda parte, della seconda parte della trasmissione. Non riusciremo a mandare tutto quello che pensavamo di inserire, manderemo solo degli estratti da adesso in poi, e intanto ci godiamo questo lavoro che si intitola Paul Land dei Du Duets, da Los Angeles Free Music Society, ad Antonio Rezza chiaramente. Yeah.

Hello? Oh, no. Thank you. E dopo l'omaggio che abbiamo voluto fare alla vocalità trasformata, portata a una sorta di eccesso di vocalizzazione, appunto, di quasi estremizzazione anche se il termine, insomma, lascia il tempo che trova, però tanto per farci capire, tanto per essere probabilmente aderenti con uno degli ascolti più difficili da sempre, quello della voce. Potrebbe sembrare paradossale la faccenda, visto che si ascolta tanto e si cerca anche nei pezzi, soprattutto pop, la voce, ma è una voce cantata, una voce cantata anche con una determinata forma molto ben definita. E in realtà, appunto, la voce ha veramente una possibilità come strumento veramente ampissima. Nella prima parte abbiamo sentito Stratos che giocava con la sua voce, la faceva diventare una sorta di teatro dell'assurdo, con acrostico in memoria di Laio, come Ciampi per altri versi utilizzasse la voce per esprimere poi un profondo disappunto esistenziale, politico, eccetera eccetera, magari in forma più narrativa, ma poi in realtà anche questa voce impastata di vino è volutamente, insomma, tale, ci porta anche più lontano di quello che potremmo pensare in un primo momento. Quella di Rezza chiaramente è una voce che va a modificare sia l'ambiente dove lavora, appunto dentro le scenografie di Flavia Mastrella, sia la percezione durante prima l'intervista informale o l'informa intervista o la sformata, insomma, intervistata, usciva questo discorso della percezione, del cambio della percezione, di cercare quel fuori, noi dicevamo fuori quadro, quello quasi fuori scena, quello osceno, anche visto che poi è uscito anche a un certo punto il fantasma di Carmelo Bene, che tante volte, appunto, viene accompagnato a Rezza. Abbiamo voluto tirar fuori, oltre che a Los Angeles Film Music Society, un altro grande genio che aveva, insomma, un riferimento chiaro a Duchamp, quindi all'avanguardia storica, soprattutto, appunto, del grande dadaista americano. Poi egli stesso, con lo stesso Tudor, che va insieme in combutta, si potrebbero dire, in questo lavoro decisamente folle, anche se poi i lavori per quanto riguarda la vocalità sembrerebbe un mondo molto distante da Cage, in realtà niente niente era distante da Cage, era sempre tutto dentro un disegno che era atto a libertare, a modificare, a manipolare tutto il manipolabile, tutta l'oggettualità e quindi anche l'oggetto sonoro o voce, in questo caso con Tudor che accompagnava con rumori di tape elettronici che appunto si dialettizzavano con una vocalità portata appunto a una sorta di deriva folle, microfonata dentro appunto una manipolazione con dedica chiaramente ai grandi manipolatori vocali. E in effetti finiamo poi con uno dei grandi misconosciuti, non è John Cage come sicuramente fama, però un grande che conosciamo anche noi insomma da relativamente poco. Abbiamo scoperto questo grande personaggio svedese. Eh sì, si tratta di Stig Henson, musicista e compositore che dagli anni 70 porta avanti un discorso di sperimentazione sul tech sound e sulla voce, trattamenti sonori vocali che ovviamente negli anni 60-70 venivano sviluppati attraverso il tape collage, dunque sulla manipolazione dei nastri attraverso delle forme ovviamente ancora primordiali per certi versi della sperimentazione, per quasi anticipatrice di quello che sarebbe avvenuto a livello di tecnologia digitale, soprattutto negli anni 90 e negli anni 0, e poi ovviamente sempre attento alle dimensioni della sperimentazione e della manipolazione elettronica anche nel corso degli anni 90 e degli anni 0. Lo stesso Stig Henson ha portato avanti una trasformazione delle registrazioni passate attraverso l'uso del computer. Il risultato è quello di costruire un vero percorso di sperimentazione sulla voce, ma anche sulla sound art, sul cosiddetto spoken word, ovviamente parole lette, recitate e trasformate attraverso una musicalità spesso concentrata sulla ritmicità, attraverso appunto lo spazzettamento e l'intreccio e la sovrapposizione di parti vocali registrate dello stesso Stig Henson o di registrazioni esterne o di manipolazione anche di registrazioni di altri musicisti, altri compositori che venivano trattate dello stesso musicista svedese. Autore che oltretutto è sempre stato in prima linea sul piano anche politico, dichiaratamente marxista, e con vari brani anche dedicati a grandi personaggi del movimento operaio internazionale. Stig Henson, abbiamo tratto un frammento di queste sperimentazioni da Tech Sound Games and Trinkets, uscito nel 2002 per la Firework Edition. In realtà abbraccia l'arco temporale della sperimentazione proprio del percorso sonoro dello stesso Henson dal 1969, la prima registrazione che troviamo proprio in apertura del disco, fino alle ultime manipolazioni del 2002. Abbiamo selezionato una traccia, in particolar modo quella che riguarda un periodo comunque legato agli anni 70. Ce l'andiamo a sentire, ricordiamo ancora Stig Henson, Tech Sound Games and Trinkets. Sun, Sand, gold, sand, sand, sand, sand, sand, snow, dig, water, wind, fever, death, gold, gold, sand, sand, nugget, nugget, sand, sand, sand, sand, sand, sand, sand, sand, sand, sand. Oh, Klondike. Straordinario e delirante il modo in cui Steen Hansen, in questo lavoro splendido degli anni 70, elabora proprio l'idea di questa trasformazione della voce, oltre al fatto che già la registrazione in origine è piuttosto assurda, ma ovviamente le sovraincisioni, gli effetti anche in fase di post-produzione costruiti dallo stesso Hansen sono geniali nella costruzione di questa sovrapposizione ritmico-melodica, ma soprattutto sonora, proprio il suono anche del spoken word e del trattamento effettistico crea appunto un effetto assolutamente interessante e geniale da parte dello stesso teatralizza Hansen. Anche teatralizza, una, sì, certa qua maniera, sì. C'è una forte una sorta di fuoriuscita anche dalla musica, sì. Anche, cioè, voglio dire, diventa qualcosa di extra musicale. Non è un caso che abbia collaborato con, Bob Cobb e Gary Chopin, che grande, anche tutti e tre grandi autori di poesia sonora. Poesia sonora. Quindi infatti, proprio anche uno spostamento non soltanto più su sulla musica nel senso stretto della parola, ma su anche proprio la poesia che diventa musica e viceversa, sì, cioè sì. Questo intreccio tra testualità sonora e testualità nel vero senso della parola vocale. Certo, ma anche certi sibili o certi giochi sulla vocalità che poi utilizzava lo stesso Demetrio Stratos che abbiamo ascoltato alla fine della prima parte della trasmissione di stasera, allo stesso Artaud che lavorava moltissimo, non a caso ricordiamo che lo stesso Stratos fece una rappresentazione di un'opera inedita di Artaud in maniera assolutamente geniale. Tutto questo si collega e chiaramente anche in un certo senso credo che Antonio Rezza, che credo che ci ascolterà la stessa Flavia Mestera, non si sa mai, forse ci ascolta, forse si è stancata, è andata a nanna nella provincia, come diceva lui, laziale, che è tutto abbastanza calmo e fermo. Molto etrusca. Infatti mi piacciono gli etruschi, andrò a trovarlo ad Anzio, a Nettuno, e per certi versi credo che anche Henson si colleghi anche a queste sperimentazioni che lo stesso Rezza ad esempio fa sull'uso della voce, le trasformazioni vocali, certi stridoli, certe decostruzioni proprio anche del suono della voce. Penso che possa essere appunto comunque collegabile a questo percorso. Ecco, Steen Henson abbiamo... Comunque voluto... noi gliel'abbiamo dedicato, insomma. Assolutamente, dire, assolutamente. Con Steen Henson abbiamo chiuso questo percorso che potrebbe anche svilupparsi di più, l'abbiamo trattato poi in altre trasmissioni in maniera differente, il discorso sulla voce, sul trattamento sonoro, sulla poesia sonora, sul tech sound, sulla fonetica connessa anche al suono, per cui direi che abbiamo voluto chiuderla così stasera con questo pazzoide Steen Henson, svedese del 1936, semi sconosciuto eppure molto importante sulla scena della sperimentazione. E niente, a questo punto... Guarda, ti faccio notare una cosa. Dica. In 10 anni, caro, non siamo mai riusciti. Guarda i secondi in questo momento. Sono le 2:02. Siamo stati incredibili. Finiamo i puntuali. Alle 2 precise. È incredibile. Ah, vedo anche l'orologio... Infatti, abbiamo sforato. Benissimo. Ce l'abbiamo fatta questa. Ci voleva, perché sennò era abbiamo un po' inquietante. Ecco, dai. Ce l'abbiamo fatta. Bene, abbiamo rotto... Abbiamo rotto anche le 2 questa volta. Va bene. Va bene. Va a posto, bene, va bene. Sei contento? Buonanotte. Sì, sono contento. Sì, soprattutto per un'altra cosa che non posso dire in radio, ma sono contento di aver risolto. Problemi tech, ma tanto ogni volta ce l'abbiamo sempre. Infatti, bisogna sempre stare attenti. Siamo abituati, dai. Ma ci vorrebbe la telecamerina per riprenderci. Infatti. Non tacigliare troppo. No, ma ho le sopracciglia così, mio, non è che non è colpa mia, c'ho sempre, ce l'ho folte. Va bene. Ci sentiamo la settimana prossima. Un saluto da Max Macchia. Chiaramente da Eliseo Scarpa. La prossima settimana 80 più 30. Bravo, infatti. Con buon Jerry, dunque faremo un percorso. Perché lui è diventato buono. Siamo tutti buoni. Ok, la prossima volta con il buon Eliseo. Ok.